istituto comprensivo Manzoni di Ravanusa, è una scuola che si trova in una situazione, diciamo, periferica, a rischio di esclusione sociale e naturalmente, diciamo, in un ambiente che soffre, diciamo, per la riconosciuta crisi socio-economica, diciamo, che naturalmente si riverbera sotto l'aspetto culturale, insomma, del territorio, certo, di riferimento. Una situazione difficile dal punto di vista sociale, ecco, ma la scuola come cerca di incidere positivamente? Quale messaggio arriva dalla vostra scuola? Porta avanti tutta una serie di iniziative che promuovono intanto il successo formativo e il benessere dello studente, che valorizzano poi tutte le note positive del territorio stesso, in un modo aperto e solidale con le istituzioni e le associazioni del territorio che ci riconoscono questo e praticamente ci danno sempre la fiducia di partenariati e collaborazioni, è molto attenta alla dimensione europea dell'educazione, promuove in particolar modo delle scuole per genitori.